Europa 24. Un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli, nuovo appuntamento, inizio di settimana per Europa 24, si riparte dai conti, anzi molti hanno titolato in queste ore proprio l'ora dei conti, quelli che l'Europa fa all'Italia, certo, ma non solo, alla Francia, al Belgio, di fatto al sistema dell'Unione Europea. E allora partiamo proprio dal nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan stamattina, entrando alla Commissione europea all'incontro dei ministri economici e finanziari, ha parlato dello sforzo in più, quello sforzo in più che la Commissione europea chiede all'Italia. Sentiamo dalla sua voce di che cosa si tratta. Lo sforzo in più ha a che fare con l'efficacia delle misure, quindi continueremo a collaborare, a discutere in modo molto produttivo con la Commissione sulla valutazione che noi e la Commissione diamo su misure che abbiamo già introdotto. Questo è il punto. Ogni misura non è semplicemente scrivere una cifra su un pezzo di carta, ma entrare nel merito delle misure e chiedersi se effettivamente le misure daranno i risultati che noi pensiamo in base alla caratteristica tecnica delle misure. Quindi un discorso, diciamo, molto nei dettagli che era già iniziato e che andrà completato. Questa mattina dunque Piercarlo Padoan parlando con i giornalisti a Bruxelles, ha parlato anche il ministro italiano dell'accordo raggiunto sul bilancio europeo 2014-2015, questione che ancora poche settimane fa sembrava davvero di difficile soluzione, in particolare rispetto alla posizione britannica. Quindi conti fatti, sentiamo un commento del ministro Padoan su questo tema. Grazie alla presidenza italiana è stato concluso l'accordo sul bilancio europeo per il 14 e per il 15 che permette di pagare le bollette arretrate, permette di salvaguardare i bilanci dei Paesi membri e permette di trovare risorse per il rilancio della crescita. Quindi di questo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Permette anche di assicurare la continuità di grandi progetti europei come Erasmus, Erasmus Plus ormai diventato, insomma una buona notizia di accordo tra le forze su un tema che ancora una quindicina di giorni fa sembrava davvero difficile. Ma cambiamo tema, parliamo di lusso. Il lusso si sa non conosce crisi o comunque la sente meno di altro settore, una cosa che a volte diciamolo ci sorprende, magari ci innervosisce anche quando vediamo appunto chi nelle fasi di crisi si può permettere delle spese importanti. Se guardiamo però lo stesso tema da un'altra prospettiva, dobbiamo renderci conto che circa il 70% della produzione del lusso nel mondo è una produzione europea e quel 70%, un buon 25%, arriva proprio dall'Italia. Insomma, guardando al lusso come a un settore produttivo, allora l'interesse, la prospettiva cambia. Ecco, oggi viene presentato un rapporto di un'organizzazione che si chiama ECCIA, sta per European Cultural and Creative Industries, quindi un'alleanza delle industrie creative del lusso, delle associazioni che in Italia è rappresentata da Altagamma. Un rapporto che viene presentato questo pomeriggio per fare il punto su un settore che di fatto assicura lavoro a circa 2 milioni di persone nel continente, che cresce come abbiamo detto a dispetto della crisi, un settore insomma che ci interessa. Oggi ne parleremo e approfondiremo questo tema nell'appuntamento di Europa 24 questa sera, ma voglio darvi un'anticipazione. Abbiamo sentito in proposito Armando Branchini, vicepresidente di Altagamma. Non c'è dubbio, infatti nel 2010 rappresentava il 3% del PIL europeo e invece nel 2013 è già aumentato del 33% al 4%. Nel 2013 i consumi mondiali di prodotti di lusso, dalle automobili ai beni di lusso per la casa, alla ospitalità, ai vini e liquori, al cibo, al design, all'arredamento, agli yacht, sono stati di 792 miliardi di euro. Ecco perché dunque ci interessa, anche per questo ci interessa molto, un'industria creativa europea molto italiana da sostenere, da proteggere anche rispetto al grande sistema della falsificazione. Con questa notizia dunque è tutto per il nostro appuntamento che torna domani alle 14, ma come vi ho anticipato stasera intorno alle 21.30 Europa 24 notte per approfondire il tema proprio del lusso che vale e che interessa tutti quanti. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.